Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Orsù, popol drudo, snuda le mani. Non vedi che giungon Meazza e Rosciani, i signor di finanza dagli acuti cervelli, che mai ne furon visti sì lucidi e belli. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Che fine faremo? Torniamo a lavorare come muli e a tirare fine mese? Abbiamo famiglia, abbiamo bambini. Ho fatto una cosa. Sai, mi viene l'orticaria ogni volta che dici così. Stampiamo 20 milioni. Una sola partita. Sì, e cosa facciamo? Qualunque cosa vogliamo. E allora, ti introduco, caro Mauro, nel magico mondo delle Good Girls, Beth, Ruby e Danny. Ma di che cosa si tratta? Sono tre amiche. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. A Due di Denari. È una serie televisiva americana di grande successo che sta andando in onda in una piattaforma molto nota, della quale non posso dire il nome naturalmente, perché sennò facciamo pubblicità. Beh, perché se non dici il nome chiaramente... Vabbè, è su Netflix, la sto seguendo, e mi sembrava che la storia di queste tre eroine, un po' malviventi, si calzasse a pennello per la trasmissione che vogliamo organizzare questa mattina, per la nostra trasmissione di questa mattina. Allora, perché sono tre donne che hanno un sacco di problemi economici e che pensano di risolvere svaligiando un supermercato. Ecco, però questo spero non sarà l'approccio che noi daremo all'alfabeto del risparmio. Assolutamente no, però insomma sono donne che ad un certo punto della loro vita prendono atto del fatto che bisogna essere un po' più consapevoli della propria situazione finanziaria. C'è in particolar modo la storia della protagonista che ad un certo punto scopre di essere tradita dal marito, un marito che è andato in bancarotta con quattro figli, lei si ritrova senza soldi, ma si rimette in sesto in maniera molto deciso, passando per la rapina al supermercato, poi però prende anche altre strade un pochino... Allora, io vorrei prendere le distanze e stigmatizzare questo tipo di consigli è finanziari molto divertente, che la mia collega serie. Sta fornendo. No, è quella classica storia in cui tu ti metti dalla parte del malvivente, del cattivo, che non sono affatto cattive, in realtà sono tre donne un po' sfortunate che... cercano di barcamenarsi come meglio possono nei disagi della vita quando questi arrivano. Comunque, scherzi a parte, noi non vi invitiamo ovviamente a svaligiare né supermercati né banche, ma invece invitiamo gli ascoltatori, ma davvero soprattutto le ascoltatrici questa mattina, se vogliono, a parlare con noi, a comunicarci, a segnalarci le loro scelte, esperienze, pensieri. Sono le protagoniste della nostra puntata, sì. Perché l'alfabeto del risparmio oggi è la lettera D come donna. Allora, i numeri sono 800 024 0024, il numero verde se volete comunicare con noi in diretta. SMS e WhatsApp li riceviamo al 349 238 6666. C'è un'altra notiziuola che però vorrei darti, sì, a proposito di donne. Te ne assumi tu la responsabilità, visto che i commercialisti sono amici tuoi? No, noi siamo amici di tutti i commercialisti, però anche delle commercialiste, verrebbe da dire. Allora, che è successo? Insomma, la rete femminile Noi Rete Donne, che si occupa da decenni di democrazia paritaria all'interno dell'ordine, ha scritto al presidente dell'ordine dei commercialisti Miani. Perché? Perché è stato fatto il nuovo consiglio, quota del Consiglio Nazionale dei Commercialisti sulla riforma fiscale. C'è un gruppo di lavoro che viene presieduto da Carlo Cottarelli, coordinato da Carlo Cottarelli. È la commissione sulla riforma fiscale, sostanzialmente. Esatto, all'interno del Consiglio. Insomma, sì. È un'iniziativa di ampio respiro. Giustamente i commercialisti sono in prima linea, però verrebbe da dire, beh, i commercialisti e anche le commercialiste, visto che la riforma tra l'altro dovrebbe occuparsi anche di conciliazione vita-lavoro, dovrebbe occuparsi di tassazione delle famiglie, prelievo sulle famiglie, eccetera. E invece le donne commercialiste non sono rappresentate in questa commissione, quindi Noi Rete Donne ha scritto a Miani. Sono un po' impermalite. E ha scritto al nostro amico presidente dei commercialisti Massimo Miani, gli ha detto: però presidente, abbia pazienza, le donne sarebbero anche il 40% delle iscritte, circa 40.000 su 100.000, insomma. Solo per questo già dovrebbero avere una rappresentanza, ma poi non stiamo a soffermarci su tutte le altre ragioni. Ma poi mi sembra improbabile che guardando proprio al merito non ci siano delle donne commercialiste preparate preparate che si occupano anche magari di temi particolari legati proprio a quelli che verranno affrontati come temi fondanti della riforma. Sai che cosa possiamo suggerire loro? Di attivarsi presso il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria e di proporre una delle iniziative che verranno proposte nel corso del mese dell'educazione finanziaria. Parte il 1 ottobre, c'è ancora tanto spazio e quindi candidatevi eventualmente anche per dire la vostra, perché c'è spazio anche in questo ambito. E una bella iniziativa effettivamente, la riforma fiscale vista al femminile potrebbe essere interessante e anche apportare dei contributi importanti, perché no? Va bene, però io so che oggi facciamo uno strappo alla regola, perché facciamo una specie di meteo borsa 2 la vendetta oggi. 2.0. Sì, perché ovviamente come sapete, come sappiamo tutti, c'è stata una votazione, ci sono state delle votazioni a livello regionale, comunale, per il referendum, e allora vediamo come i mercati si stanno preoccupando o non si stanno preoccupando dei risultati elettorali. Abbiamo la sigla apposita specifica, Gianmarco Peronato, cortesemente. Apposita specifica, mi raccomando, quella lì. Meteo Borsa. Allora, siccome ieri ci è piaciuto tanto, oggi lo facciamo bissare. Non gli capiterà mai più di intervenire a due di denari per due giorni di seguito. Buona giornata a Luca Riboldi, direttore investimenti di Banor Sim, ben trovato e grazie. Buona giornata a voi, grazie per avermi fatto questo record. No, se non altro perché ieri insomma lei è stato il commentatore di una giornata nera per i mercati, visto che oggi i listini provano a recuperare ma sono ben distanti da recuperare quanto hanno perso ieri. Allora le consentiamo di commentare anche una giornata positiva, che è positiva soprattutto per il mercato obbligazionario, perché a quanto pare agli investitori sui titoli di Stato italiani piace l'esito di questa consultazione elettorale di questo weekend. Il differenziale fra il decennale italiano e quello tedesco stamattina, caro Mauri, a 140 punti. Milano, dopo la forte perdita di ieri, recupera appena dal punto di vista del mercato azionario lo 0,8%. Secondo te come dobbiamo leggere, caro Mauro, questa Io non lo so, spero che lo sappia Luca Riboldi, perché l'abbiamo chiamato apposta, anche perché ieri Riboldi l'abbiamo un po' costretta a commentare il meno possibile in punta di forchetta le questioni legate alla votazione, e allora oggi le chiediamo, a noi sembra di capire che i mercati, il fatto della tenuta dell'obbligazionario, lo spread che cala rispetto ai titoli tedeschi, sia un segnale di piace al mercato la stabilità che sembra uscire dalla votazione del referendum. Dall'altra parte però non piace, continua a non piacere al mercato, o forse se ne disinteressa dal punto di vista dell'azionario, cioè degli andamenti, diciamo, delle prospettive aziendali più specifiche, specialmente per noi il bancario di solito, no? Ma allora, il tema l'avete, diciamo, centrato voi, cioè ci sono due mercati con due reazioni che sono relazionari con quello che ha perso ieri, poteva rimbalzare ovviamente ben di più, e questo dimostra ancora una volta che le dinamiche che comandano sono quelle internazionali, europee, in questo caso addirittura anche globali. Evidentemente il mercato obbligazionario invece, che è molto più che rispecchia andamenti di singoli paesi, sta reagendo in maniera decisamente positiva. Lo spread si chiude di circa 7-8 basis point rispetto al giorno precedente, che non è poco rispetto ai livelli di tasso in cui siamo oggi, perché le elezioni hanno dato un segnale di continuità alla linea di governo che è sicuramente pro-europea, e poi soprattutto all'interno dei risultati elettorali, possiamo anche commentarlo oggi, la cosa importante è che nel partiti che governano è stato il PD ad andar bene, non i 5 Stelle, e il PD è il partito pro riforme, del partito che vuole anche il MES per la sanità, quindi ci sono una serie di indicazioni che fanno pensare non solo che si continuerà sulla questa linea pro-europea, ma che anche si procederà con quelle riforme che sono veramente la benzina necessaria a far sì che il mercato azionario italiano, questo azionario, possa sovraperformare gli altri mercati, perché quello che i mercati internazionali cercano non da mesi ma da anni, quasi da decenni, è il percorso di riforme che l'Italia non ha mai voluto implementare. Stiamo parlando di riforme della giustizia, della pubblica amministrazione, di questo tipo di educazione. Queste sono le cose importanti, perché saranno la base per rilanciare la crescita economica di lungo periodo, ed è quello che potrà finalmente far migliorare il mercato azionario italiano rispetto alla sottoperformance forte degli ultimi 10 anni rispetto al resto d'Europa e del mondo. Tra l'altro, a proposito di temi bancari, adesso non le faccio chiaramente commentare singole storie, le dico solamente io. Oggi ritorna l'ipotesi di una possibilità che Unicredit formuli un'offerta per Monte dei Paschi, quindi qua si rimette di nuovo in moto il potenziale risico bancario, che potrebbe essere un tema che catalizzerà l'attenzione delle prossime settimane. Tornerei invece sul versante internazionale, magari circoscrivendolo a quello europeo, appunto alla dimensione europea, Riboldi, perché ieri abbiamo visto che chiaramente il nuovo allarme per quello che riguarda tanti paesi di un ritorno di contagi molto importanti. Stamattina c'è il ministro della salute spagnolo che sta invitando tutti i madrileni a limitare i loro movimenti e contatti all'essenziale per frenare la diffusione dell'epidemia di Covid-19, 200.000 morti negli Stati Uniti, insomma un tema che sta tornando di nuovo a determinare vendite forti, importanti e preoccupanti sul settore turistico, le compagnie aeree, e ieri è stata proprio una giornata KO per questi comparti, che non si risolveranno, secondo quello che possiamo percepire in questo momento, mai più, Riboldi. Ma dunque, ieri c'è stata Lufthansa che ha dato una guida sul quarto trimestre di stima di fatturato, che era atteso il calo intorno al 50%, invece il traffico aereo loro atteso intorno a meno 70, meno 80, è tanta cosa, e quindi evidentemente questo ieri ha massacrato un po' tutto il settore delle linee aeree, degli alberghi. Infatti grosse compagnie come anche Marriott in America ha perso 7-8%, quindi c'è stata, questi movimenti ormai sono, quando parla un grosso gruppo internazionale e dà una guidance così negativa, addirittura va a impattare il prezzo del petrolio, perché la domanda di petrolio per il 15%, domanda mondiale di petrolio, è fatta dalla domanda delle linee aeree, quindi questo ovviamente ha una conseguenza a catena, e questo dimostra ancora una volta che l'impatto del virus nel breve è molto molto forte. Poi è chiaro che questa cosa, ecco, dicevo, non si riprenderanno mai, in realtà ci sarà un momento in cui torneremo tutti a volare, non dico come prima, ma quasi. In questo momento però, se lei chiede a qualcuno intenzione di fare un viaggio intercontinentale dove deve portarsi la mascherina per 8-9 ore, probabilmente col rischio comunque di ammalarsi, probabilmente la risposta è no, nessuno voglia di farlo volentieri, quindi questo sta frenando tantissimo questo settore, che è tanto importante per tantissimi settori collegati. Va bene, la ringraziamo Riboldi. Mi sembra di capire che, allora, se vogliamo proprio riassumere con un titolo brutalmente giornalistico, il mercato azionario si disinteressa delle nostre votazioni, quello obbligazionario invece è soddisfatto di come è andato il voto. Senz'altro, ecco, se vogliamo giusto una piccola aggiunta sull'Italia, oggi guardiamo dei titoli che sono, per esempio, Poste Italiane, Snam Rete Gas, quelli che io chiamo i bot italiani, che quindi vengono comprati soprattutto per il dividendo, che ovviamente nel momento in cui lo spread cala e quindi l'obbligazionario italiano rende di meno, diventano titoli interessanti. Oggi questi titoli sono tutti rialzo dall'1 al 2%. Infatti. Bene. Grazie allora a Luca Riboldi, direttore investimenti di Banor Sim, per questa Meteo Borsa edizione speciale post elezioni. Grazie e alla prossima, dottor Riboldi. Grazie a voi, saluti a tutti. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. E allora, qua a quanto pare sarà necessario, come sai Mauro, ce ne siamo resi conto la scorsa primavera, di dotarsi di tutta la tecnologia possibile in casa, e d'altronde lo Stato è anche molto generoso, ci dà degli incentivi mica da ridere. Ci dà degli incentivi per un cosiddetto piano voucher per la banda ultralarga, però attenzione, perché l'antitrust è arrivata con una ammonizione preventiva, una specie di moral suasion, sì, esatto, come giustamente è. Ha chiarito le regole di base prima ancora di cominciare a discutere. Allora, siccome ci sono incentivi per famiglie con ISEE fino a 50.000 euro e per le imprese per passare la banda ultralarga, l'antitrust ha detto sì, attenzione però, patti chiari e amicizia lunga. L'autorità auspica che gli interventi di sostegno siano erogati solo alle connessioni con una velocità di almeno 100 mega, senza preferenza tra le tecnologie. In pratica, che cosa più o meno vuole dirci l'antitrust? Cerchiamo di non utilizzare questi voucher come incentivo commerciale a cose che già avreste venduto, ma invece solo per veri e propri upgrade, miglioramenti tecnologici veri, quindi a 100 mega, altrimenti siamo un pochino, come dire, opportunisti, e allora questo non piace all'antitrust, che l'ho fatto sapere in anticipo questa l'antitrust volta. L'antitrust in questo periodo veramente prende a sberle un po' tutti, e quindi noi comunque sai dove ho letto tutto questo? Perché per fare questa bella bella figura. C'era in il trafiletto di Andrea Biondi stamattina, brava, sul Sole. A pagina 13 me lo sono bevuto e poi sono venuto qui a, così, a mostrare tutta la mia scienza che non è mia. Allora, ascolta, invece voglio raccontarti un'altra notizia, perché per te poi rappresenterà un assist fantastico per il nuovo serpente corallo del giorno. Perché ne abbiamo trovato un altro, figuriamoci, sì, non vuoi trovare il serpente corallo della giornata. Allora, l'assicurazione per l'auto diventa sempre più conveniente in tempo di coronavirus. Se ci si muove meno, si comprano meno macchine, di conseguenza si stipulano meno contratti di copertura. Lo conferma anche l'ultimo bollettino dell'IVAS, che è l'autorità che vigila sul mercato assicurativo del nostro paese. Il prezzo medio effettivo pagato per l'RC auto nel secondo trimestre di quest'anno è stato di 383 euro, in diminuzione di quasi 5 punti e mezzo rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Tradotto in soldoni, calcolano alcune associazioni dei consumatori, si sono risparmiate una ventina di euro nel giro di un anno. Il trend già indicava una riduzione dei lavori legata alla flessione registrata delle polizze, appunto per coprire nuovi veicoli e nuovi assicurati, cosiddetti nuovi rischi, che sono diminuiti del 35,8% su base annua. E peraltro questo calo, di cui abbiamo appunto dato notizia, questo meno 5,4% su base annuale, segue anche la tempistica del lockdown e delle riaperture. La riduzione dei premi infatti è stata decrescente, meno 5,9% di aprile, meno 4,9% di giugno. E in più ricordiamo anche tutte le iniziative intraprese dalle compagnie di assicurazione, che hanno anche momentaneamente sospeso il pagamento appunto delle polizze per tutti gli per molti automobilisti, per molti assicurati, erogando anche in questo caso dei simil voucher praticamente da come dire, riscuotere come sconto per le polizze che verranno rinnovate successivamente. È stato un mondo che è stato molto in movimento durante questo lockdown, ma a quanto pare insomma il lockdown ha reso più conveniente il mercato per gli assicurati. Ma questo naturalmente non ha fermato neanche i serpenti corallo, che sono sempre alla guida, sono sempre alla guida. Perché proprio a proposito di assicurazioni, allora i Lloyd's di Londra hanno segnalato, sapete, i Lloyd's, Deborah, quelli che assicurano, blasonatissimi, esatto, assicurano poi cose che nessun altro si permette di assicurare, hanno segnalato di essere stati vittime di una truffa qui da noi in Italia. Perché? Perché in Italia circolano polizze fideiussorie contraffatte intestate proprio ai Lloyd's. Secondo l'autorità italiana, le polizze riportano in calce come corrispondente Lloyd's Risk Assets Management, però i Lloyd's di Londra dichiarano di non avere alcuna relazione commerciale con questa entità e neanche con un signore, tal Christophe Spadou, che ne avrebbe confermato l'autenticità. E quindi l'IVAS ricorda le caratteristiche: i Lloyd's hanno sede nel Regno Unito, in One Lime Street a Londra, sono sottoposti alla vigilanza delle autorità britanniche e abilitate a operare in Italia in regime di stabilimento, perché infatti hanno una sede a Milano. Sono anche appunto abilitati. Se volete maggiori indicazioni, sul sito dell'IVAS trovate il comunicato, e peraltro ne parliamo oggi sul Sole 24 Ore. Adesso apriamo il nostro sportello dei reclami. Dillo a due di denari. Buongiorno ragazzi, sono Nicola, provincia di Vicenza, camionista. Io volevo dire che neanche a me non mi fanno la surroga. Sono venuto a vedere la casa e mi ha detto che non vale più 90.000 euro quello che mi sono rimasti da pagare. Però io volevo mandare un messaggio a tutte le banche, li vorrei mandare a fare un giro in quel paese, perché in quella casa ci abito io e quella casa la pago io e non la pagate voi. Se prima valeva di più e adesso non vale, non è colpa mia se è andato giù il mercato. Quindi fatevi una ragione. Ciao. Quindi, se non ho capito male, l'ascoltatore voleva rinegoziare il mutuo, gli è stata fatta una nuova perizia. Mi sono persa il primo passaggio. No, credo che si siano rifiutati di disporre una nuova perizia e di negoziare, di rinegoziare il mutuo, cioè di chiuderne uno perché e aprirne un altro. Unilateralmente hanno deciso che il mercato è sceso e che quindi quella casa vale meno del mutuo residuo? Porremo la questione ai nostri esperti, ieri ne abbiamo parlato. E... oppure all'ascoltatore, diciamo, ci rimandi un altro messaggio in cui ci ricostruisce tutta la vicenda un po' nel dettaglio, perché non l'abbiamo capita bene. E però, insomma, Le banche hanno anche il diritto di dire di no, se non vogliono rinegoziare possono farlo, non è un obbligo. E l'abbiamo purtroppo anche detto ieri, l'abbiamo ribadito ieri nel corso della puntata, nella parte dedicata proprio al mutuo, e ne parlavamo con Roberto Aneda di Mutui Online. Se volete riascoltare la puntata, sul sito di Radio 24, esatto, www.radio24.it, cercate la sezione 2 di denari e potete risentire quello che ci ha spiegato Aneda anche sulla facoltà delle banche di non accettare le nostre indicazioni. Donne e finanza, tra poco parliamo di voi donne all'ascolto, raccontateci come vi prendete cura della vostra vita finanziaria, siete autonome, indipendenti dal nucleo familiare, dal compagno, avete un conto corrente separato, avete pensato alla vostra pensione, avete lasciato il lavoro trascurando la vostra dimensione economica e ad un certo punto ci avete ripensato e vi siete accorte che avete fatto un po' di errori e dovete colmare questi gap. Ne parleremo tra poco con due esperti che tra l'altro hanno messo in campo tante iniziative che arricchiranno il mese dell'educazione finanziaria, pronto a partire il 1 ottobre. Prima però, cara Deborah, per favore, le borse. Sentiamo, amici di Radio 24, la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta di denari. L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire. Allora, ovviamente non posso che fare gli onori di casa, a questo punto è una trasmissione che mi diventa senti un po' in minoranza tutta al femminile. Stamattina. No, sono anzi molto contento. Tre donne intorno al cor mi sono venute, vi verrebbe da dire con il sommo poeta. Allora le presento in disordine alfabetico per cognome questa volta, perché così me le hanno precisate dalla regia l'ottimo Marco Lombardo, che sempre vigila su di noi. Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, bentornata a Due di Denari. Grazie, buongiorno a tutti. E in collegamento con noi invece un debutto a Due di Denari, Mariolina Coppola, che è presidente di Soroptimist International Italia. Buongiorno, benvenuta a Due di Denari. Buongiorno, grazie. Stiamo per parlare di donne e educazione finanziaria, donne e denaro. Io so, Deborah, che tu hai preparato una scheda, il tema ti sta molto a cuore, tutti sì. Gli anni. Dobbiamo constatare che c'è un ritardo da parte delle italiane rispetto agli italiani, soprattutto nelle giovani generazioni, per quanto riguarda il rapporto con il denaro. Questo l'hai messo nella scheda? Sì, l'ho messo un po'. Se voglio proprio sentire, sentiamo per favore la scheda preparata da Deborah. Di come donne. Solo per il fatto che sono più longeve, le donne dovrebbero farsi carico con maggiore senso di responsabilità della propria vita finanziaria. Eppure, indagini nazionali e internazionali continuano a restituire una fotografia molto preoccupante dell'interesse che le donne hanno per questo aspetto della loro vita. Basti pensare che 3 donne su 10 non hanno neanche un conto corrente. La tendenza rimarcata è sempre la stessa: quella di delegare al marito, al compagno o comunque ad altri il compito di organizzare il risparmio e gli investimenti della famiglia. Per la verità, le donne lasciano indietro soprattutto le questioni finanziarie personali, perché se si tratta di farsi carico delle incombenze economiche della quotidianità, dalla spesa alle bollette, alla gestione delle necessità dei figli, in questo caso l'impegno c'è. Ad esempio, lasciano il lavoro per i figli, trascurando il fatto che la pensione non si crea da sola e per loro si apre un drammatico rischio povertà. Molte di esse non sono in grado di impostare serenamente la propria vita all'indomani di un divorzio, che spesso le coglie del tutto impreparate in termini di conseguenze economiche. L'ultima indagine DOXA, condotta per conto del comitato Edufin, che ha evidenziato come la pandemia abbia mostrato tutta la fragilità finanziaria delle famiglie italiane, ha anche messo in luce come nelle donne pensare alla propria situazione finanziaria generi ansia. Risponde così oltre il 43% delle interpellate. E nonostante una donna su 2 veda nell'emergenza sanitaria una grave minaccia per il proprio benessere finanziario, non sono significative le iniziative concrete che intraprendono per proteggersi da rischi e momenti di vita avversi. Le criticità sono strettamente legate al livello di istruzione e al contesto geografico. Nel sud e nelle isole le donne partecipano meno al mercato del lavoro, con minori possibilità di conseguenza di essere indipendenti economicamente. Allora, 800 24 00 24, il numero verde che vi dà l'opportunità di interagire con noi su questo tema così bello, serio e delicato. Claudia Segre, presidente e fondatrice soprattutto di Global Thinking Foundation, una fondazione nata nel 2016 per sostenere, patrocinare ed organizzare iniziative e progetti che abbiano come obiettivo l'alfabetizzazione finanziaria, rivolta fondamentalmente a soggetti indigenti e fasce deboli, e la donna appartiene proprio a questa categoria. Per il terzo anno voi partecipate al mese dell'educazione finanziaria come Claudia, e soprattutto so che avete condotto un'indagine per il mese Edufin 2020. Che cosa avete scoperto quest'anno? Ma allora, i progetti e gli impegni della fondazione ovviamente durante il lockdown hanno avuto un ulteriore impeto, perché lavorando tutti in smart working abbiamo portato avanti quello che abbiamo annunciato nello scorso evento annuale novembre 19, cioè la digitalizzazione completa di tutti i materiali. Già nel 2018 abbiamo presentato la piattaforma digitale per famiglie, la app è partita a gennaio ed è proprio tramite l'app Consapevoli Indipendenti che più di 1000 donne sono state intervistate per dopo l'utilizzo evidentemente dei materiali all'interno dell'app e diverse attività formative e informative che gli sono state offerte. Direi che il risultato è molto interessante e si aggiunge a quella che è l'analisi di impatto sociale che pubblicheremo proprio domani insieme all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Questo per sancire un po' l'importanza di quello che si sta facendo all'interno anche delle guide e dei consigli del nostro Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria. Quindi questa analisi sulla forza del digitale, che durante il lockdown ha aiutato le donne in situazioni veramente difficili, ha visto sostanzialmente che la previdenza complementare inizia grazie proprio alle donne ad avere un'importanza fondamentale nelle scelte da parte delle donne, e che la cosa grave però dall'altro lato è che il 93% delle intervistate, se conosce la differenza tra una carta di debito e una carta di credito, ben il 33% non sa neanche cosa sia una carta revolving e il 25% ne dà anche una definizione sbagliata. Quindi questo è il primo tema, quello della conoscenza, come dicevi, dell'alfabetizzazione finanziaria. E poi sugli investimenti è chiaro che qui abbiamo una tendenza a mantenere i soldi da parte ancora a casa, addirittura il famoso sotto il materasso, e solo il 12% si rivolgerebbe a una banca per avere un prestito, e perché per lo più si rivolgono ai familiari nei casi di emergenza. Ecco, per tentare di dare una mano a quelle donne che sono ancora un po' indietro in termini di conoscenze, nozioni, ma anche di consapevolezza finanziaria, voi avete dispiegato sul territorio tutta la vostra forza attraverso l'attività di Donne al Quadrato, quindi delle formatrici che sono andate città per città proprio per provare a sostenere quelle donne che hanno preso atto dei propri limiti, no? Su questi argomenti. Che tipo di risultati avete raggiunto, Claudia? Ma allora, i corsi che ricominciano proprio domani, partendo da Giovinazzo, sia fisicamente che digitalmente, abbiamo avuto, grazie alla rilevazione di impatto sociale fatta dall'Università del Sacro Cuore, risultati incoraggianti in termini di definizione dell'indice di benessere finanziario che ha calcolato proprio l'Alta Scuola di Specializzazione al FIS, che collabora con noi, un miglioramento a 6 mesi dai corsi di circa il 5% sull'indice di benessere finanziario, quindi anche di welfare sociale percepito da parte delle donne partecipanti. Ciò vuol dire che non bisogna smettere di impegnarsi sull'attività di formazione per le donne e per tutta la cittadinanza a cui si rivolgono i corsi Donna al Quadrato, perché i risultati ci sono e da questo punto di vista sono incoraggianti per quella che è la situazione italiana anche dopo la fase acuta pandemica. Io vorrei chiamare in causa Mariolina Coppola, che è presidente di Soroptimist International. Allora, innanzitutto, molto brevemente, è un'associazione mondiale di donne dalla elevata qualificazione professionale. È corretta questa definizione? Un pochino brutale, forse un pochino brusca, dottoressa Coppola. Sì, lo è. In realtà noi rappresentiamo le arti, i mestieri e le professioni. Siamo divisi in 170 club in Italia, siamo un'associazione internazionale presente in tutto il mondo, ci occupiamo di diritti delle donne e fondamentalmente delle fragilità, quindi ci occupiamo di pari opportunità, di discriminazioni e cerchiamo di fare un'azione di advocacy, nel senso che cerchiamo il più possibile un cambiamento culturale. Ecco, voi avete stipulato un protocollo di intesa con il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria. Ci può chiarire quali sono i termini di questo protocollo, di questa azione congiunta SOR Optimist Comitato Nazionale? Sì, noi abbiamo al nostro interno all'incirca un centinaio di commercialiste, ma pensavamo che un accordo col Comitato potesse sicuramente facilitare i nostri corsi, perché abbiamo fatto tanti corsi di educazione finanziaria, ma cercavamo proprio un corso di alfabetizzazione che per il momento non era presente nel portale di Banca Italia. Quindi è un anno che lavoriamo a questi corsi. Pronto? Presidente sì. Coppola, l'abbiamo un attimo persa. Allora ribadiamo, è da un anno che lavorate a questi corsi? Vediamo se la linea migliora. Se... Niente, no, migliora? No, sì. Aspetti di un attimo, riproviamo. Intanto io comunico il sito, perché sai che mi piace segnalare sempre i siti. Sei sempre il solito precisino, ma ci fa molto piacere. Allora, soroptimist.it per Sor Optimist International d'Italia, stiamo parlando con la Presidente Marilena Coppola, e gftfoundation.com per il Global Thinking Foundation, lo dico un po' così all'italiano, allo storpio, ma per cercare di comprendere come si può rintracciarlo facilmente. Forse abbiamo recuperato il collegamento con la dottoressa Coppola. Eccoci qua. Allora, se ci stava dicendo che il protocollo è stato firmato È stato firmato un anno fa e il Covid chiaramente ci ha un po' rallentato nella programmazione. Partiamo il 1 ottobre in concomitanza con il mese dell'educazione finanziaria. La difficoltà reale è quello di raggiungere le donne veramente fragili anche economicamente, ma noi siamo abituati a farlo perché abbiamo tanti service, abbiamo tanti progetti e in genere riusciamo a raggiungere queste fasce. Siamo molto permeabili in Italia, appunto perché siamo molto parcellizzati nelle piccole città, nei posti di montagna, nei posti anche irraggiungibili. Qual è lo scopo? Noi ci siamo occupati sempre di violenza di genere, siamo state le antisignane e ci sembrava che un corso di educazione finanziaria potesse proteggere le donne soprattutto in momenti particolari, prima della separazione, prima della denuncia. È chiaro che non è solo questo lo scopo, fondamentalmente noi lavoriamo sulla consapevolezza e quindi e sull'empowerment delle donne, quindi abbiamo cercato con Banca Italia di costruire un progetto. Banca Italia formerà le nostre commercialiste e soprattutto le formerà ad avvicinare un certo tipo di fascia della popolazione, anche con dei corsi psicologici, voglio dire tra virgolette di empatia, perché la cosa importante è arrivare alle menti e al cuore. Certo, allora ci fermiamo per qualche istante perché abbiamo le informazioni sulla viabilità, torniamo subito con Marilena Coppola e Claudia Segre a parlare di educazione finanziaria al femminile, rivolta alle donne. Traffico. Prendete i mezzi, fate il carpooling. Due di denari. L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire. Con divorzio, separazione, le donne sono quelle che ci guadagnano di più. Gli unici a rimetterci sono gli uomini. Dipende da che punto di vista la si guarda. Sicuramente molto spesso per le questioni del mantenimento gli uomini pagano pegno, si impoveriscono pure loro e questo è un tema sociale che abbiamo affrontato tante volte. È anche vero che però da qualche anno la giurisprudenza ci insegna che l'assegno di mantenimento è molto meno generoso di quello che hanno in testa molte donne che si separano e per questo all'indomani di un divorzio, lo dicevamo nella scheda, vengono colte di sorpresa, perché se si aspettavano 100, che l'assegno di mantenimento fosse 100, in realtà i giudici riconoscono 20 se va bene qualche volta e quindi devono rimboccarsi le maniche, rimettersi in pista con grande sgomento a volte. Su questi punti che lavorano le nostre amiche di Global Thinking Foundation e di Sor Optimist, proprio per cercare di infondere nuova consapevolezza ai nuovi problemi delle donne. Però Mauro, prima di sì. questo, devo sgridarti perché hai dato tutti i siti, sì. ma non hai dato quello guida. Ah no, certo, chiedo venia, mi cospargo il capo di cenere, metto i ginocchi sui ceci e vi ricordo il sito fondamentale, quellochecontapunto.gov.it, lì trovate anche tutte le iniziative che sono in programma per ottobre, per il mese di educazione finanziaria. E tra l'altro, chi volesse proporre, enti, scuole, associazioni, iniziative di formazione per l'educazione finanziaria, specialmente delle fasce che mostrano più ritardo nella preparazione, ne stiamo parlando oggi appunto dell'educazione finanziaria al femminile, ecco, può farlo proprio collegandosi a questo sito, lo ripeto, quellochecontapunto.gov.it. Torniamo alle nostre due interlocutrici di questa mattina, Claudia Segre, donne con problemi naturalmente di consapevolezza finanziaria, ma sono problemi diversi a seconda della fascia d'età che si vive, perché per le ragazze, lo dice anche l'indagine OCSE PISA, le competenze sono scarse, ma ci sono ancora margini di miglioramento se si è, come dire, agli stadi iniziali anche dell'ingresso del mercato del lavoro, eccetera. Per le donne un po' più avanti con l'età, problemi diversi, quindi chiaramente anche strumenti diversi da mettere a loro disposizione per cambiare direzione nella propria esistenza. Sì, infatti il lavoro che noi facciamo con gli sportelli, sia quelli fisici a Milano, a Palermo e nelle municipalità, con il Comune di Milano, negli sportelli donna e nello sportello digitale con la WhatsApp chat che funziona 24 ore al giorno, è proprio quello di raccogliere richieste che vanno dal semplice orientamento al lavoro o casi di mobbing fino a problemi di gestione del budget familiare, problemi finanziari legati al sovraindebitamento, quelli legali, come avete già detto, fiscali, problemi legati a questioni che derivano da gestione di imprese familiari, dove le donne spesso non vengono remunerate e vengono tagliate fuori nel momento in cui c'è una problematica all'interno della famiglia. Quindi sicuramente l'attività di ascolto da parte di quella task force di professionisti, di Donne al Quadrato, che lavorano sia come educatrici finanziarie che come assistenti agli sportelli, è fondamentale per capire sul territorio quali sono i bisogni, e per ogni età e target ci sono strumenti differenti che possono venire in ausilio alle necessità, dalle giovani universitarie che non sanno come destreggiarsi e non sanno l'importanza dell'indipendenza economica, sino alle donne più anziane che si trovano con delle povere pensioni, visto che le pensioni sono molto basse in Italia per le donne. Ma ci sono però di tanto in tanto dei segnali anche di miglioramento, lo chiedo a entrambe, sia a Mariolina Coppola che a Claudia Segre. Noi da oramai da 3 anni, da quando facciamo questa trasmissione, abbiamo segnalato più volte le difficoltà, specialmente di alcune fasce. Oggi stiamo parlando dell'educazione finanziaria femminile, ma potremmo anche fare un ragionamento sul, non solo sul genere, ma anche sulla fascia sociale. Ci sono però dei segnali di miglioramento anche proprio per quanto riguarda l'educazione finanziaria femminile. Voglio cominciare da Mariolina Coppola. Io non penso, io sono molto preoccupata delle fasce giovanili, perché c'è una fuoriuscita del lavoro anche di ragazze formate, diciamo nel momento in cui hanno il primo figlio, quindi non faranno mai il secondo, perché senza lavoro non se ne farà un secondo. Vedo una generazione abbastanza ammaccata, tra virgolette, il Covid poi ha stressato le fragilità. Quindi non penso che ci siano buoni segnali, perché il lavoro non viene visto come un investimento a lungo raggio. Lavori precari, per cui c'è anche la certezza o l'incertezza di avere una previdenza anche per il futuro. Vedo queste ragazze molto poco consapevoli degli investimenti che stanno facendo, non solo economici, ma sociali e morali su se stesse. E per cui penso che sia necessario anche lavorare nelle fasce dai 25 ai 35, oltre che sugli studenti. Banca Italia fa un lavoro enorme per creare proprio consapevolezza. Sì, prego, dottoressa Coppola. Allora, noi abbiamo, come dire, commissionato uno SROI che verrà, cioè un ritorno sociale dell'investimento, per capire se questi nostri corsi, se queste nostre azioni avranno veramente un impatto sociale. Molto dipenderà dal numero delle donne che riusciremo a raggiungere. Faremo dei questionari, perché l'impegno dell'accordo è anche questo, di dare dei dati certi a Banca Italia. Io penso che il percorso sia molto lungo. Claudia sicuramente ha cominciato molto prima di noi non è che siamo degli esperti in educazione finanziaria, noi abbiamo soltanto delle fasce professionali, delle categorie, abbiamo 300 avvocati, 100 commercialisti, 100 psicologi, quindi metteremo tutte le nostre competenze in campo. Secondo me è molto importante fare un'azione culturale, cioè ribadisco questo concetto, perché in questo momento finalmente si parla di nuovo di pari opportunità anche, diciamo, nelle task force o nei fondi da utilizzare, potrebbe accadere una rivoluzione culturale. Certo. E potremmo avvicinarci a dei paesi evoluti. Allora, abbiamo il tempo che sta scadendo, volevo proprio chiudere con un messaggio telegrafico da parte di entrambe. Le tre cose da fare subito per poter prendere atto dei propri limiti finanziari e porre rimedio, cominciare a pensare di farlo. Claudia Segre, un'indicazione pratica, non tre magari, per sì, le nostre ascoltatrici. Allora, no, esatto, allora, prima di tutto grazie, perché quello che state facendo, i risultati già si vedono, quindi sono decisamente ottimista per quello che state facendo, anche voi ci state aiutando in questi anni. Le cose pratiche che sono portare la coscienza che l'indipendenza economica è il punto di partenza di qualsiasi donna, partendo dall'uscita dall'università fino ovviamente all'avvio nel mondo del lavoro. E la seconda è che, grazie a Dio, con la digitalizzazione ci sono tante associazioni come quelle qui presenti in questa trasmissione e fuori, e il comitato a disposizione delle donne, le formazioni e l'informazione non mancano, quindi agire, informarsi e non lasciarsi prendere alla sprovvista. Grazie, allora grazie a entrambe, Mariolina Coppola di Sor Optimist Italia, Claudia Segre di Global Thinking Foundation. Noi torniamo domani e parliamo, guarda un po', di lavoro. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.